486. Cicale ripiene. Non crediate che voglia parlarvi delle cicale che cantano su per gli alberi. Intendo dire, invece, di quel crostaceo, squilla, squilla mantis, tanto comune nell'Adriatico e colà cognito col nome di cannocchia. È un crostaceo sempre gustoso a mangiarsi, ma migliore assai quando in certi mesi dell'anno, dalla metà di febbraio all'aprile, è più polputo del solito e racchiude allora un cannello rosso lungo il dorso, detto volgarmente cera o corallo, il quale non è altro che il ricettacolo delle uova di quel pesce. È buono l'esso, entra con vantaggio tagliato a pezzi nella composizione di un buon cacciucco, ed eccellente è in gratella, condito con olio, pepe e sale. Se lo aggradite anche più appetitoso, sparatelo lungo il dorso, riempitelo con un battutino di pan grattato, prezzemolo e odore d'aglio, e condite tanto il ripieno che il pesce con olio, pepe e sale. 487. Cicale fritte. Alla loro stagione, cioè quando hanno la cera, come detto al numero precedente, si possono friggere nel seguente modo, e ne merita il conto, dopo averle lavate, lessatele in poca acqua, coperte da un pannolino con un peso sopra. 15 minuti di bollitura ritengo siano sufficienti. Sbucciatele dopo cotte e messa a nudo la polpa, tagliatela in due pezzi e infarinatela, doratela nell'uovo frullato e salato e friggetela nell'olio.